La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ma ben ritrovati a tutti qui alla Rosa Purpurea. Buona Pasqua, cominciamo subito con gli auguri. Speriamo che il tempo vi aiuti a passare serenamente queste ore festive. E se il tempo non vi aiuta, ma anche se vi aiuta, perché no? C'è sempre il cinema che vi può dare una mano, perché l'offerta non manca anche in questo lungo ponte pasquale. Lungo perché le scuole poi ricominciano in là nella settimana e quindi c'è spazio anche per così portare i ragazzi al cinema, ma anche per divertirci e divertirvi con le novità cinematografiche del weekend, che sono varie, sono italiane e straniere, sono veramente un po' per tutte le fasce. Noi ne abbiamo scelte tre, su queste ci concentreremo durante la nostra puntata, ma parleremo anche di un festival molto particolare, di un film che sta piano piano trovando i suoi spazi in Italia e non solo, e poi chiaramente giocheremo insieme con il nostro DVD Game e andremo a vedere un po' cosa c'è in televisione e in un video per passare appunto una settimana serena sotto il profilo del buon cinema. Andiamo subito a sentire i contenuti di questa puntata nei nostri titoli di testa. Jim Carrey e Ewan McGregor, coppia gay in colpo di fulmine, storia di un poliziotto texano e sposato che scoprirà la sua vera natura sessuale in carcere. Una storia d'amore sul mare per il nuovo film di Alessandro Dalatri, tutto ambientato sopra e sotto le acque limpide sull'isola di Ventotene. Un bambino di 8 anni e due genitori come tanti, stressati, pignoli, litigiosi, ma in fondo innamorati. Sullo sfondo della Francia anni 60 è Le Petit Nicolas, un gioiello dal cuore tenero e delicato. A Roma, il Festival del Cinema Patologico, perché anche un bel film può essere terapeutico per chi soffre di disagio psichico. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Arriva in Italia I Love You Philip Morris. Stiamo sentendo una delle canzoni che ne compongono la colonna sonora, To Love Somebody. I Love You Philip Morris, epurato dalle scene più esplicitamente gay, ma finalmente arriva. E per un film che ha suscitato polemiche un po' ovunque, è già un risultato. Lo distribuisce Lucky Red, chapeau. Qualcuno dice con un titolo, colpo di fulmine e una locandina, che sembrano voler coprire la vera matrice gay del film. Vero, ma chi se ne frega. Chi vuol fermarsi alle apparenze entrerà in sala convinto di godersi una commediola e si troverà invece di fronte alla storia d'amore tra due omosessuali, uno dei quali anche truffatore, condannato all'ergastolo, pensate, da George Bush, allora governatore del Texas. Tutto vero, dalla prima all'ultima scena, tutto tratto dalla vera storia del truffatore gay Steve J. Russell, raccontata in un libro dal giornalista Steve McVicker. Oh, mi sono dimenticato di dire che sono gay? Sono gay, gay, gay, gay, gay, gay. Lo sono da quando ho memoria. Ehi, guardate su! Io vedo un pony. Voi che vedete? Io vedo una motrice. Io vedo un elicottero. Io vedo un pisello. Cosa? Che tipo di pisello? È il pisello di un uomo. Ma sta zitto, non è un pisello. No, non lo è. Oh, lo vedo, eccolo! Io ancora non lo vedo. Eppure i segnali c'erano tutti, come avete sentito. Sin da quando era bambino Steve si sentiva attratto dal sesso maschile. Un'infanzia apparentemente felice che finì di colpo un pomeriggio quando mamma e papà gli dissero la verità. Steve era adottato. Lo ritroviamo adulto, con il volto di Jim Carrey, agente di polizia in Virginia, sposato con una ragazza un po' sempliciotta, tutto chiesa, lavoro e barbecue. Insomma, un gay represso. E se non fosse stato per te, Gesù, non avrei mai trovato quell'ultimo filtro per il caffè e la riunione delle ragazze preghiera sarebbe stata rovinata, perciò grazie tante. Amen. Oh, vorrei ringraziarti per quest'uomo, Gesù. Quest'uomo che lavora così tanto per farci felici. Quest'uomo che mi ha inseguito fino alla fine della terra e mi ha promesso una vita di eterna felicità e ha mantenuto la promessa, oh Signore, l'ha fatto, ogni giorno. Amen. Amen. Dopo un incidente stradale, Steve realizza che la vita è una sola e che non la si può passare a fingere. Scatta il piano B, mandare tutti a quel paese, dire la verità e trasferirsi in Florida a vivere la propria gaytudine. Solo che, come dice Jim Carrey nel film, essere gay è molto costoso. E così Steven Russell diventa uno Zelig della truffa. Si finge manager e avvocato, è furbo, ha talento e fa soldi a palate. Ma arriva il momento in cui la polizia gli presenta il conto, il penitenziario di Stato, dove però incontrerà l'amore della sua vita, Philip Morris, un Ewan McGregor più biondo e più timido. Amore folle, ancora fughe, ancora truffe, ancora arresti, ma stavolta con un obiettivo sentimentale. Certo, l'amore è una strana cosa. Ti rende felice, ti rende triste, ti fa fare una serie di cose che non avresti mai immaginato di fare. Infatti, l'amore è il motivo per cui sono sdraiato qui a morire. Un film in crescendo, questo colpo di fulmine. Parte arrancando, troppe cose in poco tempo, un arco temporale di 30 anni riassunto in 5-6 scene. Manca ritmo, a dimostrare che non sempre le storie vere si prestano a essere raccontate al cinema. È questo il caso. Si usa a dire, lo avrete sentito, una storia da film, ha vissuto una vita da film. E quella vissuta da Steven Russell lo è stata a tal punto da risultare poco credibile persino al cinema, che è un mezzo che non vuole il vero, ma ha bisogno del verosimile. Non a caso è dopo l'approdo in carcere di Steven che il film trova il suo percorso, ovvero quando la storia si fa più classica, con tempi narrativi meno iperbolici. Merito di Jim Carrey e Ewan McGregor, una coppia perfetta, ma anche dell'ironia e della capacità di lavorare in sottrazione, più coi vuoti che coi pieni, più coi silenzi che con le parole, del regista e sceneggiatore Glenn Ficarra, uno che ci aveva già raccontato l'altro lato di Santa Claus in Babbo Bastardo. Per cui siete avvisati, colpo di fulmine, al di là del titolo, non è una commediola e I Love You Philip Morris non è il titolo che lo racconta meglio. Per una volta è il sottotitolo italiano, Il mago della truffa, a spiegare cosa vi troverete di fronte. Un truffatore, anche se per amore. E questa è la storia di I Love You Philip Morris, colpo di fulmine, Jim Carrey, Ewan McGregor nei cinema italiani da questo fine settimana. Noi abbiamo il tempo di dare un'occhiata a come vanno le cose in classifica, perché siamo convinti che troveremo questo film comunque nella top 10 la prossima settimana. Ebbene, la classifica italiana dello scorso fine settimana ha visto un po' di rivoluzioni. Un po' di rivoluzioni che hanno portato Dragon Trainer in vetta alla classifica, un film d'animazione in 3D. Anche piuttosto carino, ma che non ha ottenuto al primo weekend tutto quello che avevano ottenuto altri film in 3D negli ultimi tempi. Qualcuno comincia a dire forse c'è stata troppa euforia tridimensionale. Secondo posto per Alice in Wonderland, che però è arrivato a quasi vicino alla soglia dei 28 milioni di euro incassati all'inizio del suo sfruttamento in Italia. Terzo posto, ma buon esordio, per Happy Family di Gabriele Salvatores, con 1.107.000 euro incassati. Segue un altro film italiano, Mine Vaganti di Ferzan Özpetek, che è vicino ai 6 milioni globali. Quinto posto per Remember Me, un inizio così così per il nuovo film di Robert Pattinson, protagonista, l'idolo di tanti teenager per Twilight. E poi via via tutti gli altri. Esce per la prima volta dopo tantissime settimane dalla top 10 Avatar, e questa è anche una notizia. Noi a questo punto diamo la linea alla regia, sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo qui insieme alla Rosa Purpurea e avremo ospite Alessandro Dalatri per parlare di un'altra novità italiana sul mare. La Rosa Purpurea. Più qua, più là. Fai una cosa, mettiti in mezzo. In mezzo qua? Stendo! Mi dici in mezzo, dimmi stendite, io mi stendo, no? Va. Così. Metti la mano così, come a dire, accomodatevi. Vai, mi metto scuro, non ho già fa modella, fai fotografia. Sì, lo stavo a... Nuovo insieme alla Rosa Purpurea, ben ritrovati. Seconda parte che si apre con il cinema italiano. Avete sentito una clip, un breve momento del film di Alessandro Dalatri Sul mare, settimo film di Alessandro Dalatri, che è in collegamento con noi. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, salve. Benvenuto alla Rosa Purpurea a raccontarci. Grazie. questo film di cui, piccolo aneddoto, Alessandro mi raccontava più o meno un anno fa, a tarda primavera eravamo a Cremona insieme in giuria in un festival e appunto mi diceva sto girando un film a Ventotene. Insomma, l'abbiamo visto adesso questo film, è un posto straordinario veramente. Ho visto, che meraviglia, cioè, io sono innamorato di quell'isola. Senti, una storia d'amore, Alessandro, cominciamo da qui, una storia d'amore quella fra questo ragazzo, Salvatore, isolano, che si sente come un materasso perché ha due lati, quello estivo e quello invernale, lavora d'estate con le barche e con le turiste soprattutto, diciamo, lavora e se le lavora, e poi invece d'inverno va in cantiere sulla terraferma. È però una di queste turiste, diciamo così, come si dice da quelle parti, lo inguaia un pochino. Perché hai scelto questa storia d'amore? Ma questa storia innanzitutto è tratta dal romanzo di Anna Favignano, In bilico sul mare. Con Anna io avevo già collaborato perché abbiamo scritto insieme Casomai, e Anna credo non meriti presentazioni. Aggiungo solo che è l'unica sceneggiatrice italiana che ha avuto la nomination all'Oscar per Il postino di Troisi. Che dire, questa storia mi ha colpito perché non è la classica storia giovanile per i giovani, come si usa dire, no? D'amore, ma è una storia d'amore, soprattutto è un film sui giovani, è un modo per andare a indagare e a guardare con uno sguardo autentico, mi piace sottolineare questo aggettivo, quelli che sono, diciamo, le fragilità e quelle che sono anche le dinamiche dell'innamoramento delle nuove generazioni. Questo poi, Anna, grazie alla sensibilità di Anna, è anche interessante perché c'è un rovesciamento totale dei ruoli, no? Abbiamo un ragazzo, tra l'altro isolano, quindi neanche su uno sfondo metropolitano, che ha però diciamo, una sensibilità più femminile rispetto a quello che è raccontato tradizionalmente, e c'è una ragazza invece che viene dalla città, che ha dei comportamenti un pochino più, tra virgolette, maschili. Questo è molto interessante perché comunque raccontava anche in qualche modo due realtà e due mondi a confronto. Quello di un'Italia che in qualche modo non c'è più, di un'Italia innocente che siamo noi che abbiamo perso un po' questa innocenza. Salvatore fa parte di una generazione di ragazzi che vivono su queste isole e che non hanno la macchina perché non gli serve sull'isola, non hanno la moto, non frequentano internet, neanche desiderano tutte queste cose, in qualche modo vivono come respirano. E dall'altra parte invece c'è questa ragazzina che arriva col suo carico di insoddisfazioni tipiche dei ventenni, delle giovani generazioni, che giustamente in qualche modo poi lamentano anche non tanto l'insoddisfazione per quello che vivono, che c'hanno intorno, ma per quello che non c'è. Salva anche me. Tu non hai bisogno di essere salvato. Te che ne sai? Beh, in effetti non so niente di te. Sono una normale. Ma quello pure io. No. Sì. Tu hai due vite. Quella invernale e quella estiva. Brava, come materassi. Io forse neanche una. Alessandro, hai detto due personaggi appunto molto diversi. Cosa si danno, cosa si scambiano alla fine del film i due personaggi? Cosa è rimasto a uno e all'altro delle rispettive diversità? Ma guarda, sicuramente si scambiano amore, nel senso che poi l'amore c'è, perché, ripeto, questa è una storia d'amore. C'è una puntualizzazione importante da fare per come viene costantemente raccontato l'amore recentemente, che l'amore sì è importante, ma non è tutto se non è un confronto fra due persone che in qualche modo hanno, diciamo, degli aspetti risolti all'interno, o perlomeno che sono decisi a risolverli, no? Allora, pensare che l'amore sia solo l'unico elemento che porta felicità mi sembra che sia un po' come promettere bolle di sapone, no? Ricordi Alberto Sordi? Ecco, questo secondo me è un'onestà intellettuale che esprime questo film. Alessandro, rimani un attimo con noi, perché noi abbiamo una piccola tradizione da una decina d'anni qui alla Rosa Purpura, quella di giocare con i nostri ascoltatori, di far ascoltare tracce di film misteriosi fino a quando qualcuno non li indovina. Allora ti chiedo di stare un attimo lì, perché è arrivato il momento di aprire la prima finestra sul DVD Game di questa settimana e magari di vedere se anche Alessandro Dall'Atri riesce a partecipare al nostro quiz. Ma non ti chiederò la risposta, perché sennò sveliamo troppo e non possiamo farlo. Ascoltiamo. Quelli che cercavano di parlare non erano nemici dello Stato, erano nemici dell'umanità. Il direttore del Louvre era un nemico dell'umanità. Convocando una conferenza stampa lo è diventato. Avete già respirato l'atmosfera da Colossal. Se avete già indovinato, la Rosa Purpurea @radio24.it, c'è il Blu-ray di questo film a disposizione. Più tardi altre tracce. E allora io non lo so se Alessandro Dall'Atri questo film l'ha visto, però insomma non penso che sia il tuo tipo di cinema, diciamo così, ecco, così conoscendoti un po'. Anche se guardo un po' di tutto. No, assolutamente, ma poi per carità abbasso i geni nell'Attore d'Avorio, ma poi Alessandro Dall'Atri non è così. Detto questo, però, ti volevo chiedere un'altra cosa, Alessandro, sul tuo film Sul mare. È un film piccolo in termini produttivi, nel senso che hai proprio scelto di non avere attori da locandina, i ragazzi sono molto bravi ma sono sconosciuti al grande pubblico, e poi lo hai girato tutto con tecnologie digitali che ti hanno permesso di stare molto vicino anche a loro. Poi forse girare in un'isola così piccola sarebbe stato quasi impossibile se ci fosse arrivato il cinema, quello proprio, no, con in gran paranza. Esatto. Ecco, ti chiedo quanto queste scelte hanno influenzato quello che vediamo sullo schermo, cioè quanto il film è risultato di queste scelte fra virgolette minimaliste e quanto lo volevi davvero così. Ma guarda, è paradossale, perché poi il pubblico potrà rendersene conto, ed è veramente interessante da vedere l'esperienza anche nella sua, diciamo, come dire, versatilità tecnica. La volta che io ho usato meno elementi e meno, diciamo, risorse apparentemente, è la volta che io ho avuto più libertà espressiva, ho avuto più ricchezza. Io dico, paradossalmente, è il film mio più costoso, perché ho usato 5 supporti digitali diversi a seconda delle difficoltà di ripresa, tra cui riprese aeree, riprese subacquee, alta velocità per i rallenti, fatto con macchine che vengono dalla tecnologia balistica, insomma, tantissimi, molti effetti speciali, molte lavorazioni di post-produzione che addirittura hanno richiesto esperimenti in territori dove per la prima volta ci si andava a confrontare. Quindi diciamo che questo è stato importante. Ma la cosa più importante è che mi ha dato una grandissima versatilità artistica. Io ho girato con questa tecnica l'equivalente che se avessi usato pellicola di 140.000 metri di negativo, e invece normalmente se ne usano tra i 40 e i 50.000. Questo per farti capire la ricchezza che ho avuto a disposizione, ma anche la grande libertà che era quella di comunicare a tutti quelli che lavoravano con me, dai tecnici fino agli attori, che alcuni, ripeto, come dicevi tu, erano la prima esperienza, hanno dato l'opportunità di non avere paura di sbagliare. Perché se una cosa non veniva si rifaceva. E questa serenità e questa non paura di sbagliare, secondo me, è anche una chiave per cui ci potremmo interrogare anche a lungo sul fatto quanto il nostro cinema è mortificato, no? E mummificato anche, paralizzato dalla paura di sbagliare. Abbasso la paura di sbagliare e viva il cinema così più istintivo che le nuove tecnologie rendono davvero possibile. Sul mare, nei cinema italiani, in quante copie, Alessandro? Questa è la cosa più sorprendente ancora. Io non ho mai avuto così tante copie, vuol dire che la Warner Bros., una realtà importante, crede in questo progetto e nel risultato che abbiamo portato a casa. Sono 305. Beh, insomma, è una distribuzione degna di un grande film americano. Grazie e un saluto Alessandro Dall'Atri. Grazie a te, Franco. Ciao. Pronto. Martina. Yeah. Ciao, sono Salvatore. Salvatore chi? Salvatore, quello di Ventotene. No, mi dispiace. Devo aver sbagliato il numero. E allora, questa era la pagina dedicata a Sul mare di Alessandro Dall'Atri, che ringraziamo per essere stato qui con noi alla Rosa Purpurea. Siamo arrivati alla vetrina sui film americani, sulle novità americane, i film che stanno per uscire negli Stati Uniti e che vedremo poi più in là nel corso della stagione italiana. Oggi vi parliamo di un film che è stato in parte girato anche in Italia, e per precisione proprio a Roma, e che ha per protagonista un'attrice assolutamente famosa, una star come Julia Roberts. Si intitola Eat, Pray, Love, letteralmente mangia, prega, ama. Nel cast anche Javier Bardem. Il film è tratto dal romanzo di memorie di Elizabeth Gilbert, una giornalista e scrittrice che ha raccontato la sua esperienza esistenziale, come ci racconta la nostra Michela Bellisario, che salutiamo. Ciao Michela. Ciao Franco. Sì, come dicevi, Elizabeth Gilbert è una scrittrice, giornalista, e ha deciso di raccontare la sua svolta di vita in un libro che poi appunto è diventato un film. Tutto è accaduto quando lei aveva 30 anni, era sposata, lavorava per prestigiose case editrici di New York e viveva in una bellissima casa, insomma aveva tutto quello che in genere desideriamo. Una notte all'improvviso il crollo, si è ritrovata a piangere sul pavimento del bagno e ha realizzato che doveva cambiare qualcosa nella sua vita, non sapeva esattamente cosa. Forse, come succede, si è sentita solo molto infelice, ma appunto non sapeva da che parte iniziare per cambiare la sua vita. Il primo passo è avvenuto quando una rivista l'ha mandata come inviata a Bali, dove ha incontrato un indovino che le ha anticipato che avrebbe fatto molte esperienze, avrebbe avuto nuovi amici e avrebbe perso tutti i soldi, ma ne avrebbe fatti di nuovi. Sentiamo il passo in cui appunto l'indovino incontra Julia Roberts. You will live a long time, have many friends, many experiences. You will lose all your money. Don't worry, you will get it all back again. And you will come back to Bali, and then I will teach you everything I know. Il percorso di ritorno alla vita, diciamo così, di Julia Roberts passa prima attraverso un amante, poi la storia finisce. Quindi attraverso vari viaggi in Italia, India e Indonesia. In Italia Julia Roberts si iscriverà a un corso di lingua italiana che adora e in India troverà l'amore con Felipe. Nel cast, tra l'altro, Franco, anche Luca Argentero, il nostro italianissimo attore che sarà un amico conosciuto a Roma. In questo secondo passo del trailer la Roberts comunica alla sua migliore amica che se ne andrà via per un anno e lascerà New York perché sì, insomma, non ne può più della sua vita. You want to go away for a year? I used to have this appetite for my life and it is just gone. I want to go someplace where I can marvel at something. E allora questo è Eat, Pray, Love. Ricordo, il film esce il 13 agosto negli Stati Uniti, noi dovremo aspettare il 29 ottobre, quindi uno dei titoli di punta della prossima stagione autunnale italiana. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana. Linea alla regia, fra poco torniamo insieme, c'è un'altra novità che preme qui alle porte della Rosa Purpurea, un film per tutta la famiglia, come si usava a dire una volta, il piccolo Nicolà e i suoi genitori. Restate con noi. La Rosa Purpurea. Insieme alla Rosa Purpurea, la terza parte del nostro programma con le musiche del piccolo Nicolai, i suoi genitori, le Petit Nicolai, il titolo originale, arriva nelle sale distribuito in 250 copie dalla BIM. Questo film di Laurent Tirard che in Francia, pensate, ha superato i 5 milioni e mezzo di spettatori, diventando un vero e proprio fenomeno cinematografico. Alla base c'è uno dei più importanti classici per l'infanzia della letteratura francese, intitolato per l'appunto Le Petit Nicolas, che ha una firma nobile, quella di René Goscinny, ovvero l'ideatore di Asterix, niente meno, arricchito dalle illustrazioni di Jean-Jacques Sempé. Scritto negli anni 50, il romanzetto, ora di nuovo in libreria per i tipi dell'editore Donzelli, raccontava le gesta di un bambino di 8 anni, dei suoi variegati compagni di classe e dei genitori che Nicolà vedeva e valutava con il suo sguardo limpido di bambino. Ritroviamo tutto in questo film di Laurent Tirard che mantiene l'azione del periodo originale, ma parla anche ai bambini e ai genitori di oggi. Bambini, la fila in fondo, voltatevi per favore. Io sono Nicolà, ho 8 anni e voglio raccontarvi la mia vita. Ci sono quelli che amo di più al mondo. La mia mamma. Mi hai fatto paura. E il mio papà. Sorpresa. Ha sempre delle belle idee. Perché non te lo sei fatto portare a casa? Costava 50 franchi in più. Pesa una tonnellata, dove lo metto? A che serve l'aumento se viviamo come dei poveracci? Ancora non l'ho avuto l'aumento, figurati. Ma come? Mushboom non ti aveva detto? Non è sicuro. Ma allora non dovevamo comprare il televisore? Beh, lo riporto, lo appoggio, che non faccio? Non mi stressare, non mi stressare. Non sopporto di essere angosciato. Nicola. Sì. Non sposarti mai. D'accordo. Quello che posso dire è che la mia vita è bellissima e non voglio che cambi. Ed effettivamente è così, Nicolà è un bambino felice, suo padre e sua madre, come avete sentito, litigano ma si amano e la scuola è un vero spasso con quella schiera di bambini di tutte le estrazioni. C'è Alceste, l'amico fidato, il ciccione del gruppo, mangia sempre ma è sempre di buon umore. E poi Clotaire, smilzo e imbambolato, è l'ultimo della classe e ormai c'è talmente abituato che va dietro alla lavagna da solo. E ancora Rufus, il combinaguai, Eudé, il duro, Geoffroy, il ricco che viene a scuola con l'autista e Agnan, il secchione. Tutti diversi, ma tutti uguali, quando in ballo c'è un obiettivo comune. Ehi ragazzi, vi piacerebbe diventare invincibili? Di che parli? Venite al campo abbandonato e lì lo capirete. Beh, allora? Allora abbiamo la formula della pozione magica. Se la bevi, diventi forte come un toro. Costa 5 franchi. Ah sì? E chi ci dice che funziona? Tu. Ma le cose si complicano quando Nicolà ritiene di aver capito che i suoi genitori stanno per avere un altro bambino e che di conseguenza lui, Nicolà, verrà abbandonato nel bosco. Parte una commedia degli equivoci che vede Nicolà in preda a un comportamento sempre più strano e inspiegabile e i suoi genitori presi nella loro vita con le frustrazioni dell'aumento che non arriva e la sensazione di non essere all'altezza in una società piena di stimoli e di status symbol. Gentile signore, no, gentile signor Mushboom, no. Troppo confidenziale. Stimato signor Mushboom. Oh, aspetta, cara! Gentile signor Mushboom o stimato signor Mushboom? È inutile gridare, non sento niente quando sto in cucina. Gentile signor Mushboom o stimato signor Mushboom? Gentile signor Mushboom? Troppo confidenziale, gentile signore, basta, è meglio. Allora se lo sai perché me lo domandi? È una boccata d'aria fresca questo piccolo ma curatissimo film. La Francia della fine degli anni 50 è ricreata con grande fedeltà, a partire ad esempio dalle auto d'epoca che faranno la felicità degli appassionati del settore. Una Francia che aveva le radici contadine ma scopriva gli agi della vita borghese, che aveva combattuto per cacciare l'invasore ma ora si appiattiva sulla fantoziana esaltazione del capo ufficio per un piccolo aumento o per comprare il televisore. È proprio attraverso gli occhi di Nicolà che anche i grandi capiranno che l'unico modo di essere è quello di essere se stessi e che la ricchezza vera è quella dell'amore di chi ci sta intorno. Nel cast, al fianco del piccolo Maxime Godard nei panni di Nicolà, ci sono due affidabilissimi esponenti della commedia francese, Valérie Le Mercier, vincitrice di due César nel ruolo della madre, e Kad Merad, già visto nell'esilarante Giù al Nord e anche lui premiato col César, nei panni del padre. Una proposta ideale per tenere insieme la famiglia in questa Pasqua cinematografica senza che nessuno, né grandi né bambini, debba a pensare di avere buttato via un'ora e mezza. E siamo alla seconda traccia del DVD Game di questa settimana. Andiamo ad ascoltare allora questa clip per poter indovinare e vincere il Blu-ray di questo film. Sì, pronto. Curtis, dove sei? Sto tornando dalle vacanze, signore. Bene, questo bene. Manderò il jet a prendere Alec e Oli. Ah, Yuri Orsetto, digli di portare l'impermeabile di Caesar e nella Range Rover. E allora, non fatevi tradire da questo accento vagamente russo, la rosa purpura a @radio24.it se avete indovinato di che film si tratta. E siamo adesso alla parte magazine del nostro programma, dove cerchiamo di esplorare un po' i percorsi più particolari e più alternativi del cinema. Oggi vi vogliamo parlare di un festival che si terrà a Roma dal 7 al 10 aprile, quindi praticamente imminente. È un festival che mi ha attratto sin da quando mi è arrivato il primo comunicato stampa. Si intitola Festival del Cinema Patologico e chiaramente qui dovevamo vederci meglio. Lo facciamo con Dario D'Ambrosi, che ne è il direttore, che è in collegamento con noi. Buonasera Dario. Buonasera, buonasera e a tutti i radioascoltatori, buonasera. Allora, cosa c'è dietro questo cinema patologico? Cos'è il cinema patologico? Allora, ci sono tantissime novità, nel senso che è un festival sicuramente molto diverso da tutti i festival che ci sono sia in Italia ma in giro per il mondo, perché innanzitutto la giuria, che è composta da ragazzi solamente che frequentano il nostro laboratorio di teatro, perciò diversamente abili o disabili psichici, e questo ci fa capire che non ci sarà influenza da nessuna parte, né da produttori cinematografici, neppure da distributori, ma saranno influenzati solo esclusivamente dal loro cuore, dalla loro sensibilità e da quello che vedranno, perciò i premi saranno sicuramente originali nella loro valenza artistica. E poi l'altra novità è che per la prima volta un festival dove si troveranno dei letti, dei materassi per terra, dove la gente si potrà sdraiare e rimanere lì per vedere i film, ma soprattutto siamo riusciti ad organizzare questo festival dove vogliamo dare la possibilità alla gente di stare bene quelle ore che vengono a trovarci, perché ci sarà un buffet continuamente aperto dove la gente può prendere da mangiare, da bere, mettersi sdraiati per terra e praticamente farsi accompagnare nei film novità che abbiamo, e soprattutto proiettiamo da documentari a corti a lungometraggi che sono arrivati un po' da tutto il mondo. Insomma, se magna e se dorme, per dirla alla romana, strepitoso. Io sono anni che aspettavo un momento come questo, soprattutto devo dire quella del letto. Molto spesso servirebbe una branda anche nei cinema normali, perché capita il colpo di sonno famoso. Dario, i film, hai citato adesso appunto il fatto che si tratta di film ovviamente dove la patologia o il disagio psichico non è assolutamente la matrice narrativa o la matrice tematica, film di tutti i tipi. Puoi farci velocemente un paio di esempi giusto per invogliare il pubblico a fare un salto a questo festival? Assolutamente sì, per esempio c'è un film che si chiama Stranger in the Dark, che praticamente racconta la storia di un ragazzo che in qualche maniera viene emarginato dalla scuola e va in giro per questa città, ma è un viaggiare straordinario, quasi brillante. E quello che ci tenevo a dire, che hai precisato tu qualche secondo fa, che non è solamente filmati sulla disabilità psichica, ma filmati sulla disabilità, diciamo, e l'immaginazione in generale, ma è un'immaginazione anche quotidiana che ci può appartenere, che ci può in qualche maniera far riflettere e confrontarci con questi film e magari uscire e tirare qualche somma, un po' quello che succedeva con Fantozzi, che tutti dicevano: ah, ma il mio vicino di casa, il mio cognato, il mio cugino, sai che sembra Fantozzi, però nessuno diceva: porco cane, quello lì che ho visto stasera al cinema sono io. E in qualche maniera non è raccontare il Fantozzi, ma raccontare le proprie paure, le proprie speranze e soprattutto cercare di ritrovare l'emozione. Ecco, io volevo chiamarlo il cinema dell'emozione. Poi, siccome c'è tutto un programma in questa nuova sede del Teatro Patologico, che è la sede stabile dei nostri laboratori qui a Roma in via Casse 472, ho detto: no, ma perché bisogna che l'uomo veramente ritrovi le emozioni. Io dico: un uomo senza emozioni non è un uomo, e una vita senza emozioni non è una vita. Ecco, questo è un festival che vuole ridare in qualche senso un po' di emozione. Grazie Dario. Allora, Festival del Cinema Patologico a Roma, via Cassia 472, al Teatro Patologico, dal 7 al 10 aprile. A risentirci. Numerosi, perché vi voglio veramente con voi dividere queste serate speciali. E grazie allora a Dario D'Ambrosi, Festival del Cinema Patologico. Un'altra notizia, parliamo di un film, lo dicevo prima in presentazione della trasmissione, si intitola Into the Blue, è un documentario ed è il primo film, almeno che a me risulti, girato nella tendopoli dei terremotati dell'Aquila. Proprio in questi giorni, come sapete, il 6 aprile corre il primo anno dal terribile terremoto che ha distrutto la città abruzzese, e c'è questo film che è già stato presentato al Torino Film Fest e che sta per trovare la via delle sale. È un documentario sui giovani di quelle tendopoli, su delle aspirazioni stroncate, su delle vite che hanno dovuto trovare altri percorsi, dove la precarietà comunque è sempre il centro. Emiliano, Valentina, Paolo, Elisabetta, Stefano e Alessio, i sei protagonisti della tendopoli di Colle Maggio, che vorrebbero far qualcosa nella vita, ma si sono trovati appunto di fronte a questa immane tragedia. È un documentario con un bel ritmo, che arriva tra l'altro nelle sale italiane, dicevo, ad Ancona, al Cinema Azzurro, adesso il 6 aprile per l'anniversario e poi dal 9 al 13 aprile, ma poi arriverà a Roma, a Milano, a Torino e, notizia delle ultime ore, è stato preso in concorso a Santiago del Cile in un festival dal 17 al 23 agosto. Come dire, comincia ad avere anche un suo percorso fuori dai confini nazionali. E lunga vita allora a questo film che si intitola Into the Blue. A questo punto noi diamo la linea alla regia, sentiamo come vanno le cose sulle strade, torniamo insieme fra poco, ci aspettano tutti i consigli in DVD. A fra poco. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, siamo insieme qui per il nostro finale di trasmissione, che come sempre apre le porte del piccolo schermo al grande schermo. Cerchiamo di vedere cosa si può guardare in casa con un DVD, anche con la televisione, anzi cominciamo come sempre con la televisione, con i programmi in chiaro, con i buoni film da vedere senza pagare una lira, diciamo così, e lo facciamo come sempre con gli amici del settimanale Film TV, che insomma di palinsesti cine televisivi se ne intendono parecchio. Sentiamo qual è stata la scelta di questa settimana. settimana pasquale di Andrea Fornasiero. Ciao Andrea! Ciao Franco e un saluto anche agli ascoltatori di Radio 24 da FinTV. Questa settimana segnaliamo il film della domenica, due film che vanno in onda la domenica di Pasqua nel pomeriggio. Alle 16.25 Toy Story, il mondo dei giocattoli, alle 18.05 Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa, il secondo dei quali è in prima visione. La saga di Toy Story inizia nel 1996 per la regia di John Lasseter, che è poi diventato un personaggio noto anche come patron della Pixar e in pratica è dietro a tutti i maggiori successi di questo studio d'animazione. Ha vinto una valanga di Oscar ormai ed è riconosciuto un po' come il nuovo Disney o insomma il Disney del digitale, perché infatti Toy Story è stato il primo film lungometraggio d'animazione realizzato in digitale 3D, da non confondersi col 3D che si vede oggi, per cui sono necessari gli occhialini. E a questo riguardo Toy Story tra l'altro riuscirà presto nelle sale anche il secondo capitolo in versione 3D per prepararci all'arrivo di Toy Story 3. Venendo ai film in sé, oltre appunto all'aspetto tecnicamente innovativo, i film di Toy Story hanno la caratteristica di raccontare i giocattoli come se fossero vivi, di trattare però anche temi più seri, perché rappresentano in qualche modo il ricordo di un tempo perduto, c'è un sottotesto sempre malinconico, anche vagamente triste, e in più c'è una gran quantità, però appunto estemperato da una gran quantità di invenzioni ironiche, divertenti o anche vagamente incursioni in altri generi. Nel primo c'è il vicino di casa che gioca coi pupazzi come un maestro dell'horror, diciamo, invece nel secondo c'è un sacco di citazionismo nelle scene nel supermercato, dei giocattoli, dove ci riprende il primo film, si citano videogiochi, soprattutto Guerre Stellari. Sono tutti abbastanza spassosi ed è un buon ricordo per prepararsi all'arrivo del 3. Per questa settimana è tutto, una buona Pasqua da FinTV. Grazie, auguri anche ad Andrea Fornasiero, alla redazione di FinTV. Allora ricordiamo Toy Story e Toy Story 2, una sorta di maratona, tra l'altro Toy Story 2 è in prima visione per quanto riguarda la TV in chiaro, domenica di Pasqua, Rai 2 dalle 16.25, in attesa che Barbie e Ken si incontrino nel terzo Toy Story che sta per arrivare al cinema. Eccoci al DVD Game, terza traccia per vincere il Blu-ray di oggi, ascoltiamo. Da quanto abbiamo appreso, Tokyo sembra aver ricevuto l'impatto maggiore del terremoto. Secondo notizie non ancora confermate, vaste aree del paese sarebbero sott'acqua. Restate con noi. Catastrofe, catastrofe, avete sentito il tono, è quello catastrofico. La Rosa Purpurea, @radio24.it, per il più bravo del sabato e della domenica c'è in palio il Blu-ray di questo film. E noi come sempre facciamo invece un salto indietro, andiamo a sentire, a risentire una delle tracce di un film non particolarmente facile, devo dire, che avevamo proposto la settimana scorsa. La mangereste una carne così? Nessuno la vorrebbe mai, Gran Principe. Ecco perché sono venuto con voi a caccia. Per rinforzare i nostri legami di amicizia. È vero. Anch'io vorrei rafforzare il legame che unisce le nostre due casate di Kimonji e di Ayabe. E allora, un capolavoro, lo avevamo pian pianino svelato anche la settimana scorsa, insomma, un maestro d'Oriente, uno dei più grandi maestri della storia del cinema, un capolavoro assoluto, questo Run di Akira Kurosawa, ed è il periodo giusto, perché proprio in questi giorni ricorso il centesimo anniversario della nascita di questo maestro assoluto della storia del cinema mondiale, dal quale, guardate bene, hanno pescato in tantissimi, cioè i film di Kurosawa sono diventati degli archetipi per essere poi rifatti anche dal cinema moderno. Registi di straordinario talento hanno attinto proprio alle storie, alle situazioni di Akira Kurosawa. Questo era Run, i vincitori sono, e siccome era un film molto difficile, ha indovinato davvero il film solo un ascoltatore, Andrea Cipriani di Padova, molto bravo, ma Enrico Giovagnetti, noi lo vogliamo premiare lo stesso, Enrico Giovagnetti di Roma, perché aveva detto Kagemusha, sempre Kurosawa era il Kurosawa sbagliato, però insomma, come dire, premio di consolazione anche lui fra i vincitori. Invece andiamo a sentire un po' cosa c'è in questo bellissimo Blu-ray dal nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, allora il Blu-ray da parte di Universal offre sicuramente una visione superiore al DVD, Possiamo muovere qualche piccolo appunto per quanto riguarda l'immagine, c'è qualche momento in cui si ravvisa qualche calo di contrasto e insomma un qualche problema legato alla tenuta dei colori, ma siamo sicuramente in un ambito nettamente superiore al DVD. C'è un dignitoso risultato per la traccia in italiano DTS ad alta risoluzione, anche se solo due canali, c'è qualcosa meglio per l'originale giapponese. Tra gli extra, su tutti segnalo il documentario di Chris Marker di ben 71 minuti dedicato al regista, ma ci sono altri capitoli dedicati alla filosofia del samurai, del Bushido e al cinema epico di Akira Kurosawa. E questo quindi Run di Akira Kurosawa. A questo punto noi invece andiamo alle proposte delle uscite di questo weekend e ritroviamo un regista che aveva fatto totale scalpore, insomma un botto come si suol dire, appena era uscito con la sua opera prima, si intitolava No Man's Land, era quasi tutta girata in una trincea della guerra di Bosnia, un film piccolo ma davvero straordinario. Adesso, con qualche mezzo a disposizione in più e anche con la possibilità di scegliere attori di maggiore richiamo, arriva nelle videoteche questo Triage, Denis Stanovic in regia, Colin Farrell invece attore protagonista. Ascoltiamo la clip. Il mio migliore amico David, siamo andati insieme nel Kurdistan e poi ci siamo separati. Doveva rientrare una settimana fa. E lei è preoccupato? Abbastanza, sì. Sua moglie partorirà tra pochi giorni. Però lui è uno prudente. Non è la prima volta che uno di noi tarda a rientrare. Ed è una zona di guerra, ovviamente. È facile che ci siano dei ritardi. Ma non credo che dovrebbe preoccuparsi, se la caverà. La cosa più importante ora è concentrarsi sulla sua terapia. Mark e David, come abbiamo sentito, sono due fotoreporter che lavorano fianco a fianco in zone di guerra, diversi caratterialmente, si trovano a operare entro i territori del Kurdistan in un momento drammatico del conflitto con l'Iraq. Mark vuole seguire il conflitto, ma David, con la moglie in attesa di partorire, vuole tornare a casa. Accadrà l'opposto, perché Mark, ferito, rientra, mentre cresce l'ansia per David, dato per disperso. Dal regista appunto di No Man's Land, un dramma genuino, anche se forse con troppi argomenti da trattare e che almeno nella seconda parte non trova il giusto ritmo nel racconto. Davvero uno, il DVD è veramente di ottima qualità, non abbiamo assolutamente nulla da eccepire, segnalo la doppia traccia in Dolby Digital multicanale in italiano e in inglese, purtroppo non sono presenti extra. Salto indietro, 1978, un grande regista, Alan J. Pakula, molto a suo agio con le tinte thriller, diciamo così, nel cast Jane Fonda, James Caan. Il film si intitola Arriva un cavaliere libero e selvaggio ed è un western a tinte fosche, sentiamo. Jacob Ewen e Tom Connors erano cresciuti come fratelli più che cugini, ma Tom non ha mai voluto cedere a Jacob. Non si è mai spostato di un millimetro dalla sua terra e ha cresciuto Ellen come un maschio. L'ha fatta diventare il figlio che aveva sempre desiderato. E lei è cresciuta in mezzo a questa guerra. Non ha mai conosciuto altro. Ereditato una fattoria e un grande appezzamento di terreno, Ella Connors alleva bestiame e stringe i denti per fare fronte ai debiti con la banca e respingere le offerte di acquisto del tirannico Jacob Ewing, che la violentò a 16 anni. Entrerà in società con Frank, reduce di guerra, che l'aiuterà a sbarazzarsi per sempre del violento Jacob e dei suoi sicari. Tra gli interpreti principali, giustamente hai segnalato, Franco, sia James Caan che Jane Fonda, anche Jason Robards. Il film da Alan J. Pakula, lo stesso regista del cult Tutti gli uomini del presidente, questo poetico dramma splendidamente fotografato dal grande Gordon Willis. Il DVD arriva da Koch Media con una buona qualità d'insieme, la pellicola presenta qualche segno fisico ma lo spettacolo non ne risente. Doppia traccia a due canali in Dolby Digital italiano e inglese, come extra una galleria fotografica. Grazie allora a Claudio Poffi, auguri di buona Pasqua anche a te e ci risentiamo la prossima settimana. A presto, auguri a tutti. E siamo arrivati alla fine della corsa della nostra ora di cinema qui su Radio 24. La Rosa Purpurea si chiude qui. Appuntamento alla prossima settimana. Novità che stanno per arrivare nei nostri cinema. Sarà un aprile molto molto intenso che culminerà con l'arrivo di Iron Man 2, uno dei titoli più attesi dal grande pubblico, insomma, per questo scorcio di stagione. E allora diamoci l'appuntamento a sabato prossimo alle 18, domenica alle 15 per chi ci ascolta in replica. Un saluto da Franco D'Assisti.